Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Anche oggi parliamo di rock, eppure oggi andiamo in un certo senso in controtendenza, perché abbiamo raccontato di molti personaggi che hanno avuto esistenze travagliate e magari con contorno di droga, di alcol e anche magari di morti giovani. Abbiamo parlato di infanzie violate, di situazioni molto dure che hanno portato molti dei nostri personaggi, cioè dei personaggi dell'Olimpo del rock, a esprimersi in maniera straordinaria, diventando dei miti. Insomma, stava quasi per passare il principio che per essere una rockstar si debba necessariamente avere un passato terribile alle spalle e un presente travagliato. Non sempre è così. Oggi raccontiamo la storia di una donna che attualmente ha appena superato la sessantina, che gode di ottima salute, che è sposata felicemente da oltre 40 anni con lo stesso uomo, il marito col quale collabora da 40 anni appunto. È una donna che ha avuto una bella infanzia e una vita felice, eppure è considerata uno dei massimi esponenti della New Wave statunitense, sì, perché ha fondato assieme a suo marito nel 1974 una band mitica, i Talking Heads, uno dei gruppi più famosi di tutti i tempi, una delle colonne portanti della New Wave americana. E poi nell'80, non contenta, ha fondato una seconda band, un progetto parallelo ai Talking Heads, è una band chiamata Tom Tom Club, peraltro fondata con le sue sorelle. Una grandissima musicista, una bassista, viene definita la signora del basso, grande produttrice, ha prodotto personaggi del livello di Ziggy Marley, grande artista, anche se con sopra il peso di essere il figlio di Bob Marley. Insomma, stiamo parlando della mitica Tina Weymouth, che forma col marito e il batterista Chris Franz una delle coppie più longeve e influenti del panorama musicale internazionale di tutti i tempi. Well, we've been friends since 1971. Siamo amici dal 1971. Siamo una coppia dall'estate del 73. I think that's correct. Penso sia corretto. So that's like 41 years. Quindi sono 41 anni. E in realtà il record prosegue, perché questa era un'intervista rilasciata nel 2014. Un connubio sentimentale, artistico, miracoloso, lo sottolinea lo stesso Chris Franz. It's a divine thing. È qualcosa di divino, non so spiegarlo. Siamo molto fortunati. He's a saint. Lui è un santo. È veramente un santo. Mi tratta come una regina, ma sono la sua serva. Capite questo fatto? È esattamente così che funziona. Io mi sono unita alla band per amore suo. Non ero affatto dell'idea. Ero riluttante. You know, I was very reluctant. Eh sì, io sono convinto che uno dei segreti per far durare le coppie a lungo sia quello per il quale la donna fa credere all'uomo di essere il capo totale e invece in qualche modo lo ha imbragato in una situazione per la quale poi comanda, decide e fa tutto lei, ma senza farlo capire all'uomo. L'amore ha anche il potere di far entrare nella formazione di una band la propria fidanzata, che poi invece si dimostra essere la colonna portante di tutto. E probabilmente i Talking Heads senza Tina Weymouth non sarebbero mai stati gli stessi. Martina Michelle Weymouth, detta Tina, nasce a Coronado, vicino a San Diego, in California, 22 novembre del 50. La madre è francese, bretone, quindi lei è bilingue, e questo è molto importante perché spesso lei scriverà i testi delle canzoni sia in inglese che in francese. Il padre è un ufficiale della Marina statunitense, quindi un graduato di alto livello. Questo è il motivo per cui l'infanzia di Tina e dei suoi 7 fratelli, tra fratelli e sorelle, è felice e movimentata. La famiglia si sposta, sta negli Stati Uniti, poi vanno a vivere in Islanda e alle Hawaii e poi in Francia. Insomma, la conoscenza di diverse culture rende Tina molto ricettiva, curiosa, e tutte queste doti la porteranno sempre a sperimentare cose nuove. Proprio il padre è il responsabile della passione di Tina per lo strumento, che la porterà dritta fino ai Talking Heads e quindi fino al successo mondiale. Ho imparato prima a suonare la chitarra folk. Mio padre aveva comprato per tutte noi sorelle una chitarra folk in Germania. Tornò a casa con questo piccolo strumento e tutte iniziammo a litigare per averla. E alla fine io ebbi la meglio. La suonavo nella mia stanza mentre mia sorella riceveva i suoi bellissimi fidanzatini. Ma il mio fidanzato era la mia chitarra. Ho imparato a suonarla sui libri perché a quel tempo abitavamo in Islanda e non c'erano insegnanti. Quindi autodidatta, ma con grande passione, grande predisposizione per la musica. Quando rientra negli Stati Uniti a 12 anni, lei è già parte di un gruppo musicale giovanile. Si chiamano gli English Handbell Ringing Group e suonano in varie scuole, in chiese e poi nei teatri degli Stati del Nord con un repertorio di canzoni popolari inglesi, canti medievali. Insomma, è un battesimo strano, ma che le sarà molto utile come esperienza quando comincerà a salire sul serio su ben altri palcoscenici. Il falco e il gabbiano. Tina Weymouth, che è partita diciamo dal folk, suona direttamente con le dita, come si fa con la chitarra classica, insomma senza il plettro, e così suona per esempio il grande Mark Knopfler. Intanto studia e dopo la high school, che è l'equivalente del nostro liceo, si iscrive alla Rhode Island School of Design, una università privata di belle arti, e qui Tina fa l'incontro della sua vita, perché conosce l'uomo con il quale passerà il resto della sua esistenza, cioè il cantante e batterista Chris Franz. Ma un altro incontro fondamentale è quello con un signore che si chiama David Byrne. We met at a place called Rhode Island School of Design. Mm-hmm. Ci siamo conosciuti in un posto chiamato Rhode Island School of Design, che è una scuola d'arte a Rhode Island, Providence, Rhode Island. Lì ho conosciuto Tina e David Byrne. Siamo diventati amici. Beh, più che amici. Dopo che io e Tina ci siamo laureati, ci siamo spostati a New York. È venuto anche David. Abbiamo preso un loft nel Lower East Side, a tre isolati da un piccolo club chiamato CBGB's. Which happened to be just three blocks from a little club called CBGB's. E qui Chris Franz ci dà molte informazioni. Intanto, quella che sappiamo, i due si innamorano e sono innamorati dall'estate del 73, si sposeranno nel 77 e avranno due figli, entrambi musicisti, Robin e Egan. La seconda informazione che ci dà è che nella stessa università c'è un terzo personaggio che, come abbiamo già detto, avrà un ruolo decisivo nella formazione dei Talking Heads. David Byrne, cantante, musicista, produttore, autore incredibile, premio Oscar nell'88 per la colonna sonora del film L'ultimo imperatore di Bertolucci assieme a Sakamoto, pluripremiato, inserito nella Rock and Roll of Fame, uno dei musicisti che sull'onda punk, anche se col punk i Talking Heads avevano poco a che spartire tranne i locali nei quali suonavano, uno dei musicisti che cambierà la scena mondiale negli ultimi 20 anni del millennio. E i tre vanno a vivere a New York, sono giovanissimi, hanno poco più di 20 anni, siamo agli inizi degli anni 70, sono gli anni della New York, di Andy Warhol, dei Velvet Underground, delle avanguardie artistiche. I tre stanno respirando a pieni polmoni quella atmosfera straordinaria, e il loro punto di ritrovo è il CBGB, è il mitico rock club di Manhattan, è gestito da Illy Crystal e diventerà il luogo di nascita del punk statunitense. Lì suoneranno Patti Smith, Debbie Harry Blondie, i Ramones, i Mink DeVille, insomma anche i Talking Heads inizieranno a suonare e suoneranno in apertura delle serate proprio dei Ramones. We were fascinated and very excited by what we saw at CBGB's, which would be. Eravamo affascinati ed eccitati da quello che vedevamo al CBGB's. Gente come Patti Smith, i Ramones, proprio i primi inizi di Blondie. Beh, erano gli inizi per tutti. La gente seduta tra il pubblico poteva essere John Cale, Lou Reed, per esempio. C'erano molti artisti. Era un mix di persone. C'erano supermodelle come Lorraine Hutton, che viveva dall'altra parte della strada. Spesso veniva, giocava a flipper, prendeva su qualche ragazzo. Era un periodo eccitante, il 1974. It was a very exciting time. It was 1974. E il sogno di Chris Franz è creare un gruppo. All'inizio Tina non ha alcuna intenzione di farne parte, perché lei si sente più indirizzata verso l'arte o il design, però alla fine cede e il trio, che da prima si chiama The Artistics, nome chiaramente legato agli studi appena terminati all'università, poi cambia nome. Sul suggerimento di un amico che si chiama Wayne Z nasce il nome giusto, Talking Heads. E proprio Chris Franz ci spiega come mai Talking Heads, teste parlanti. The name was we had a list of names. Avevamo una lista di potenziali nomi. Un nostro amico ci suggerì Talking Heads. L'aveva letto in una guida ai programmi TV. C'era un glossario di termini televisivi e Talking Heads significava il format di programma meno eccitante ma più di informazione. Noi pensammo Talking Heads. Tina ed io lo facemmo stampare su una t-shirt. La indossammo e ce ne andammo a passeggio nel parco di Washington Square. Era una specie di test. E la gente ci chiedeva: fate parte di una band? Are you in a band? E fanno parte, sì, di una band. È una band dove c'è un cantante chitarrista che si chiama David Byrne, e poi ci sono loro due, Chris e Tina, e poi arriva un chitarrista, Jerry Harrison, conosciuto a Boston, proveniente da una band di buona fama, i Modern Lovers. Insomma, è una formazione che rimarrà invariata per tutta la vita di Talking Heads. E gli inizi non sono facilissimi. Ascoltate Tina che racconta come vivevano. So that was a beginning for us. Fu il nostro inizio e usammo tutta la nostra forza per far funzionare la band, ma era dura, perché vivevamo in un loft senza riscaldamento dopo le 4 del pomeriggio in inverno, ma era subito nel sottotetto, quindi in estate si moriva di caldo. Non c'era il bagno era in comune con altri appartamenti, non avevamo la cucina e nemmeno la doccia, ci lavavamo a casa degli amici. Credo che la sofferenza di quella situazione ci fece scivolare completamente nel lavoro. Lavoravamo, scrivevamo e registravavamo 7 giorni alla settimana. E dopo il primo 45 giri, Love Goes to Building Fire, dopo una serie di concerti come supporters dei Ramones, nel 77 esce il primo mitico album della band, l'etichetta la Sire Record, e l'album è Talking Heads 77. Ha un impatto fortissimo nel circuito underground, contiene il primo grande successo dei Talking Heads, Psycho Killer, e è un disco di grande successo che mette in evidenza la sezione ritmica, la bravura, l'unicità di Tina e del marito Chris Franz, e sono molto bravi, ma soprattutto sono diversi da chiunque altro. E c'è qualcuno che li nota, vuole lavorare con loro. Quel qualcuno è un musicista, compositore e produttore destinato a passare alla storia. Si chiama Brian Eno. Il falco e il gabbiano. Quella di oggi è la storia di una grandissima musicista, di una vocalist, di una produttrice. Viene definita la signora del basso, Tina Weymouth. Ha attraversato 40 anni del panorama musicale mondiale, ha fondato nel 74 col marito Chris Franz, batterista, e soprattutto con David Byrne, i Talking Heads, che sono stati una delle colonne portanti della New Wave americana. È un termine che praticamente è stato coniato per loro. Poi ha dato vita sempre col marito ai Tom Tom Club, una altra realtà di spicco del 1980, nata nell'80 come progetto parallelo ai Talking Heads, è diventata alla fine la band di riferimento della coppia. Tutto questo raccontando per una volta una storia che non è costellata di episodi terribili, di droga, di morte, di tragedia, di alcolismo, di abbandono da parte della famiglia iniziale, insomma tutto quello che in genere caratterizza le meravigliose e tormentate vite delle rockstar. E invece qui c'è un binomio privato, artistico, che dopo 40 anni rappresenta ancora un'eccellenza nel panorama musicale internazionale. E siamo arrivati al 1977, l'anno del debutto dei Talking Heads col primo album, debutto che ha un impatto fortissimo nel circuito underground, che tra l'altro contiene il primo grande successo di Talking Heads, Psycho Killer, una canzone particolare che si ispira al mitico film Psycho di Alfred Hitchcock, viene definita dai critici una canzone ingannevolmente funky, new wave, no wave, un ritmo incalzante, una delle più memorabili linee di basso di tutto il rock and roll. Peraltro la linea di basso è composta da lei, da Tina Weymouth, e va detto che una delle grandi cifre stilistiche di ogni band che si rispetti è il binomio basso e batteria, devono essere molto affiatati, in questo caso più affiatati di così, insomma stiamo parlando di una coppia che dura da 40 anni e lei in questa coppia, in questa band, neanche ci voleva entrare. I had to learn bass later. I was only playing bass for 5 months. Ho dovuto imparare a suonare il basso. Lo suonavo solo da 5 mesi quando la band ha debuttato. È stata una follia. Ho la sensazione di aver preso in giro la gente perché ero fuori. Non avevo mai preso una lezione. Nessuno mi aveva mai insegnato come fare. Mi ricordo che andavo in giro a chiedere a tutti: ma che basso dovrei usare? What kind of bass guitar should I get? Evidentemente stiamo parlando di un talento naturale, perché lei il basso lo suonava bene e con grandissima personalità. Una ragazza che ha soli 27 anni, senza avere studiato neanche un secondo, riesce a creare qualcosa che ancora oggi viene definito straordinario. Le loro capacità, le capacità dei Talking Heads non possono passare inosservate, perché erano una band che suonava molto bene, e questo in quegli anni lì non era così scontato. C'è David Byrne, il cervello, il cantante, il frontman, c'è questa coppia basso batteria, Chris Franz e Tina Weymouth, e poi c'è un grande chitarrista che si chiama Jerry Harrison. Le parole sull'album di debutto dei critici sono veramente lusinghiere. C'è chi pensa ai Talking Heads come a qualcuno con cui lavorare, con cui realizzare un progetto importante, perché un nuovo personaggio sta per apparire sulla scena di questa band. Ascoltate Chris Franz. We met Brian Eno. We were fans of Brian Eno. Eravamo fan di Brian Eno. Lo incontrammo la prima volta che suonammo a Londra, in un piccolo club chiamato Rock Garden, si chiamava così. E Eno era tra il pubblico insieme a John Cale. John Cale lo avevamo già conosciuto al CBGB's. Mi ricordo che gli disse: dai Brian, loro sono miei. Ma per quanto fosse grande John Cale allora, e lo è tuttora, eravamo più in sintonia con i valori della produzione di Brian Eno. Facemmo un paio di incontri con lui nel suo appartamento e decidemmo di lavorare insieme. We had a few little meetings with him at his apartment and we decided to work together. Brian Eno, una delle figure più importanti della musica degli ultimi 50 anni, un grande musicista, un compositore, produttore discografico britannico, parte con i Roxy Music e gira il mondo e ribalta il mondo. È una delle figure veramente cardine dell'evoluzione della musica. Decide che deve fare assolutamente qualcosa con i Talking Heads e nel 78 produce il loro secondo album, More Songs About Buildings and Food, altre canzoni su edifici e cibo. È un tipico titolo alla Brian Eno. È sicuramente questo album ha più successo ancora dell'album di debutto, porta grande popolarità al gruppo che diventa richiestissimo specialmente nelle esibizioni live. Questo secondo album ha una particolarità: la copertina viene realizzata dallo stesso David Byrne, un mosaico fotografico dei componenti del gruppo. Byrne utilizza 529 Polaroid per creare, insomma, un piccolo capolavoro di arte contemporanea. In questo album è presente la canzone Take Me to the River, che è una cover del brano di Al Green ed è uno dei momenti più alti, uno dei più grandi successi di tutti i tempi dei Talking Heads. E la collaborazione con Brian Eno continua, si avverte maggiormente nel terzo album dei Talking Heads, Fear of Music del 79, un album registrato nell'appartamento di Tina e Chris tra il 22 aprile e il 6 maggio del 79, facendo passare i cavi dal furgone del tecnico del suono parcheggiato fuori dalla casa della coppia attraverso la finestra del salotto. È una cosa folle, eppure il risultato è straordinario, grande successo, disco d'oro in un'epoca in cui essere disco d'oro voleva dire avere venduto veramente tanto. Non è come oggi che i dischi d'oro li danno a quelli che hanno una famiglia numerosa. La band parte per il suo primo tour mondiale: Nuova Zelanda, Australia, Giappone e poi l'Europa. Il successo è dato dall'insieme di tutte le caratteristiche, delle particolarità dei componenti della band, ma anche dal fatto che al basso c'è una ragazza. È un fatto assolutamente anomalo. Ascoltate questo ricordo di Tina che riguarda uno dei nostri artisti preferiti, Lou Reed. David was very mad at me because Lou Reed called me up on the telephone. David era diventato matto perché Lou Reed mi aveva chiamata al telefono. Disse: "Perché mai vuole parlare con te?" Venne fuori che qualcuno aveva trovato il mio cappotto che avevo dimenticato chissà dove. Aveva trovato dentro una tasca la mia agenda con i numeri di telefono. Aveva chiamato Lou Reed e gli aveva portato il mio cappotto. Ovviamente era stata una scusa di questa persona per conoscere Lou. Così Lou mi chiamò e andammo tutti insieme a prendere il cappotto. E Lou disse a Chris: "Ottima idea mettere una ragazza nella band. Mi domando, da chi hai preso questa idea?" Naturalmente si riferiva a Maureen Tucker, che era la batterista dei Velvet Underground. Certamente funzionava. Ha aiutato. Capite, con eleganza Lou Reed la butta lì e fa capire ai Tolkienes che hanno avuto una bella idea, ma non sono stati i primi, perché in effetti Maureen Tucker era la batterista dei Velvet Underground, quindi Lou Reed. Da bravo Lou Reed si riprende la paternità sulla vicenda. Intanto arriva il quarto album di Tolkienes, ancora prodotto da Brian Eno, Remaining Light, 1980. Viene considerato a tutti gli effetti il loro capolavoro, uno dei dischi, come dire, definitivi della musica contemporanea, una rilettura delle sonorità afroamericane che erano molto amate soprattutto da Chris Franz, e è uno studio sul ritmo, è un album veramente pieno di fantasia. E questo è un brano con un giro di basso meraviglioso che si fonda anche sulle pause, perché suona e non suona, ed è lì la forza e la personalità di Tina Weymouth. Intanto arrivano gli anni 80, il momento non è facile, arriva l'AIDS, arriva Margaret Thatcher in Inghilterra, arriva Ronald Reagan negli Stati Uniti, comincia a circolare la cocaina. Lei tutte queste cose le mette tutte assieme perché le considera allo stesso livello come dei disastri gravissimi. A tutto questo si aggiunge che David Byrne vuole lasciare il gruppo per realizzare un progetto da solo con Brian Eno, però a loro non lo dice. In 1980, David Byrne had left the group. Nell'80 David Byrne aveva lasciato il gruppo, per l'esattezza nel dicembre del 79. Ma noi non lo sapevamo. Ce lo disse un giornalista. Stavamo suonando in Germania e questo giornalista ci chiese: "Cosa farete ora che David Byrne ha lasciato il gruppo?" E noi rispondemmo: "Ma no, non l'ha lasciato." Ma invece era così, perché lui e Brian Eno avevano deciso di fare insieme un album che sarebbe poi diventato My Life in the Bush of Ghost, anche se ci misero tantissimo tempo a realizzarlo. Per vari motivi, forse anche per motivi economici, David Byrne comunque rimane con i Tolkienes per il tour legato alla promozione dell'album Remaining Light, successo strepitoso, il più bel tour che la band abbia realizzato. Peraltro io li ho visti dal vivo in quel tour, c'era anche Adrian Belew che si unì alla band, e era insomma uno dei concerti più belli che io abbia mai visto. A questo punto David Byrne segue le sue ambizioni, i suoi progetti, e c'è un altro colpo d'ala, perché Tina Weymouth e il marito Chris Franz prendono una decisione degna dei grandi personaggi che sono, perché vanno alle Bahamas da Chris Blackwell, che è uno dei più grandi produttori discografici di tutti i tempi, il fondatore della Island Record, che ha lanciato anche il reggae, Bob Marley, e fanno una richiesta precisa a Blackwell. Would you give us 3 days? Ci daresti 3 giorni per provare a fare qualcosa? Solo noi due con il tuo tecnico. E lui fa: "Perché no?" Così mettemmo insieme 3 pezzi: Wordy Rapping Hood, Genius of Love e Lorelei. Alla fine dei 3 giorni invitammo Chris Blackwell a sentirli e lui disse: "Grandioso, fate un album intero." Ecco com'è nato il primo album dei Tom Tom Club. Great, make a whole album. So that's how the first Tom Tom Club record came to be. 1981, Tina e Chris danno vita a una nuova band, Tom Tom Club, che irrompe nel panorama mondiale con tre brani che diventano successi planetari: Genius of Love, Lorelei e soprattutto Worthy Rapping Hood. E quello era un periodo in cui con un brano come Worthy Rapping Hood in una discoteca, ovviamente di quelle trend, non di quelle tamarre, non rimaneva seduto nessuno, neanche la ragazza dei cappotti. Da quel momento in poi Tina e il marito si dividono tra tre attività: quella altalenante con i Talking Heads, che realizzano alcuni album ancora, poi c'è quella dei Tom Tom Club, che prosegue ancora oggi con molti album nel corso degli anni, e poi c'è un'attività come produttore, in particolare di Ziggy Marley, il figlio di Bob Marley. Insomma, una vita di successi, di attività che restano ancora oggi di grandissima influenza su tutti quelli che sono arrivati dopo. Ma Tina, quando le hanno chiesto quale sia stato il suo segreto per una carriera così lunga, non ha avuto dubbi. I happen to live with the happiest man in the world. Mi capita di vivere con l'uomo più felice del mondo, quindi il mio stato d'animo è costantemente influenzato da quello che facciamo insieme. Lui mi fa ridere tanto e questo aiuta parecchio. What we do together, and he's always making me laugh, and that helps a lot. Quindi abbiamo raccontato e dimostrato che si può anche diventare delle rock star e cambiare la storia della musica senza necessariamente avere una vita tormentata e maledetta. E in questo caso Tina Weymouth e Chris Franz vanno in controtendenza, una coppia inossidabile che continua a sfornare musica. Persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala o hanno saputo volare in alto assieme, facendo cose che hanno lasciato un segno. Ognuno di noi nella sua vita può lasciare un segno, può dare un colpo d'ala, può volare in alto come il falco e il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco e il gabbiano @radio24.it. Vi ricordo che c'è il podcast che vi aspetta, e poi vi ricordo che se volete ci sono le mie pagine Twitter, Facebook, quella del falco e il gabbiano. Insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.